Il machine to machine è appunto, come dice la parola, la comunicazione fra macchine, è un nuovo settore delle telecomunicazioni che sta prendendo piede. Al contrario di quello che è avvenuto fino ad ora con la comunicazione fra persone, usando appunto telefoni, telefonini, è quel settore che mette in comunicazione le macchine e quindi potendo scambiare i dati delle macchine e processarli si riescono a ottimizzare i processi, con evidente vantaggio per gli utenti. Se pensiamo che nel mondo attualmente esistono 50 miliardi di macchine, per macchine intendiamo quei dispositivi che hanno a bordo un microprocessore, questo rende chiara l'idea dell'impatto che potrebbe avere questo segmento nel futuro. Queste macchine sono di fatto o potenzialmente collegabili alla rete o già di fatto collegate alla rete, o con un cavo oppure con un sistema senza fili wireless. Abbiamo citato il mondo dei telefonini, la telefonia mobile. Perché? Le macchine, per far sì che il processo possa essere ottimizzato e quindi conveniente, la comunicazione fra queste macchine deve avvenire a costi contenuti. La comunicazione via filo può essere complicata, soprattutto per macchine che non hanno a disposizione un collegamento via filo o che sono mobili, e quindi il collegamento senza fili wireless presenta una possibilità appunto per collegare queste macchine a costi accettabili. Prima facevo menzione di 50 miliardi di macchine nel mondo. In effetti, con la tecnologia attuale, principalmente diciamo cellulare, è possibile collegarne a costi accettabili circa 50 milioni. Quindi diciamo che se una macchina è inserita in un'azienda, molto probabilmente sarà inserita in una rete via cavo, perché quello forse è il modo più rapido e più efficiente per collegarla, anche a basso costo. Se una macchina è in un luogo remoto, che ne so, un distributore di bibite, o come dicevamo prima, in mobilità, forse in questo caso il sistema migliore per collegarlo è il wireless, quindi la tecnologia senza filo. Quando parliamo di macchine, andiamo più nello specifico e facciamo anche degli esempi. Dove si usa, in quali settori viene utilizzato il machine to machine, cioè questi sistemi che fanno dialogare un punto centrale dove magari c'è un'intelligenza, una serie di computer e questa macchina che sta in qualche posto. Sì, esempi tipici sono quelli dei trasporti, automotive, della telelettura e telecontrollo da remoto, dei contatori, la telemedicina, per esempio, è un altro esempio. Ecco, in questi segmenti, grazie alla possibilità delle reti cellulari esistenti e sviluppate precedentemente per le comunicazioni personali, è possibile avere un collegamento dati a basso costo.